Soundcheck. Il suono della musica. Sound scarno ma molto efficace con la sua Fly dalla recentissima pubblicazione del vocalist Tony Momrell. Per la prima volta al soundcheck di Radio 24, questo cantante che abbiamo tutti apprezzato come solista della super band Incognito, quella guidata dal chitarrista compositore Jean-Paul Blue Munich, che tanto ha fatto negli anni 80, anni 90 per la Talking Loud e il sound dell'Easy Jazz lì in Inghilterra. Proprio in questa puntata dedicata alle nuove sonorità R&B made in England, e dalla voce nera di Tony Momrell passiamo a quella particolarissima del pianista, compositore, appassionato di elettronica James Blake. 25 anni questo ragazzone di 1,92 m che arriva direttamente da Londra, recente vincitore del Mercury Music Prize, che è un premio musicale al miglior album britannico o irlandese, che viene conferito annualmente dalla British Phonographic Industry e dalla BARD, che è l'associazione discografica britannica, già dal 1992, quando questo premio nacque come alternativa ai Brit Awards. Se i Brit Awards vengono conferiti all'artista pop per eccellenza, quello che praticamente vende più dischi, il Mercury Music Prize va a finire nelle mani dell'artista più avanti, quello che spinge un po' di più sull'acceleratore, cosa che ha fatto sicuramente James Blake, anche se è giovanissimo. Con le sue due pubblicazioni, alcuni singoli, si è imposto all'attenzione di critica e pubblico con la sua voce particolarissima, con il suo mood abbastanza dark ma anche molto originale, un suono che coniuga al tempo stesso l'antico e il moderno, e lo ritroviamo in questa sua composizione bellissima intitolata Retrograde, proprio dall'album che ha ricevuto questo premio, il Mercury Music Prize, album intitolato Overgrown, che vede anche la partecipazione di Brian Eno. Eccolo qui, James Blake, alla prova del suono di Radio 24. Sound originalissimo di James Blake, vincitore quest'anno del Mercury Music Prize, premio che in qualche modo ha toccato anche la carriera e il talento di un'altra ragazza che abbiamo già presentato qui alla prova del suono di Radio 24, la vocalist, compositrice, pianista Laura Mvula, già insegnante al conservatorio di Birmingham, che si è imposta all'attenzione anche lei di critica e pubblico con la pubblicazione dell'unico album al suo attivo, ovvero Sing to the Moon, che qui apprezziamo con una composizione intitolata She. La bravissima Laura Mvula al soundcheck di Radio 24. She walked towards you with her head down low. She wondered if there's a way out of the blue. Who's gonna take her home this time? She knew that this time wouldn't be the last. this time. Looking for a savior, someone to save her from a dying self. E in questo appuntamento del soundcheck di Radio 24 dedicato al suono contemporaneo made in England non possiamo non citare l'importantissimo lavoro svolto da oltre 25 anni da Giles Peterson. Giles Peterson è uno dei più attivi disc jockey inglesi che con i suoi programmi radiofonici realizzati per la BBC e su Jazz FM ha stimolato e promosso come nessun altro al mondo l'attività discografica e concertistica di almeno un paio di generazioni di artisti soul, jazz, latin e R&B. Producer e patron di etichette come Easy Jazz, Talking Loud e la neonata Brownwood Recordings, il musicologo Giles Peterson ha lanciato le carriere di Jamiroquai, Incognito, Young Disciples, Brand New Heavies, Master at Works con il progetto New York and Soul, Courtney Pine e anche la carriera di artisti americani come Erika Badu e Roots e naturalmente quella del polistrumentista Omar Lifehook, in arte semplicemente Omar, artista che avrebbe potuto aspirare tranquillamente a una carriera da pop star, ma che ha sempre preferito non scendere a compromessi con le multinazionali e che qui incontriamo con il nuovo singolo tratto dall'album omonimo intitolato semplicemente The Man. Omar al soundcheck di Radio 24. Thinking about some things I've done when I was so wild, some things that I should not have done, just trying to be the man. The man, the man, the man, the man, the man, the man, the man. Let something happen to me. Love taught me to calm right down. The last thing I was thinking of made me become a man. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I came to again. I found love I can feel. It's like walking in sunshine. No, no, no. E chiudiamo questa puntata dedicata ai suoni, agli artisti contemporanei inglesi, però con un newyorkese, un americano che ha trovato e realizzato il sogno americano in Inghilterra e naturalmente sempre per merito del disc jockey producer Giles Peterson, che ha stimolato con la sua attività il lavoro di questo ragazzo che si chiama Cosé James, oggi una piccola stella nascente del soul e del jazz contemporaneo, che chiude così il sound check di Radio 24 con un brano tratto dal nuovo album intitolato It's All Over Your Body. Questo signore si chiama Cosé James e a tutti voi grazie per l'attenzione e buona giornata e buona musica da Gigi Telesforo. Break bread on the water and rub me down and touch me where you wanna. It's been a while. You weave back for a moment, but I need it now. I can't speak much louder, but you can hear the sound. I won't stay if you wanna go. I can't wait for it anymore. In the time that I used to know, it's gone away like a river flow. Yeah. I can't stay no longer on the ground. I can't wait till the sun hit and now I'm found. And lick lips on and on it, and love divine. And this love in the morning. Sound check. Il suono della musica.